presenta... Se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 mattino" di Alessandro Milan. Vanità. Decisamente il mio peccato preferito. Sarebbe da irresponsabili spararle grosse per prendere due voti. Quando un papà ammazza a martellate due bimbi a Trento e si suicida per la crisi economica. Quando 10 infami massacrano di botte un ragazzo all'uscita da un locale a Frosinone. Dire che bisogna stare molto attenti ed usare le parole. Adesso, fatti tutti i conti, siamo 34-35%. Beh, quindi vuol dire che il centrodestra è sopra... Intorno al 29% dovreste essere, no? Perché no, 34. E gli altri chi sono? C'è Meloni, è andato al 6. 12-12 fa 24-30, più altri. E quali 34. Sono gli altri? Poi la politica mi ha appassionato, quindi dopo l'esperienza di sindaco non escludo assolutamente altre esperienze politiche. Anche di candidarsi alla guida del paese? Non escludo niente, assolutamente anche... sì. Adesso non abbiamo ancora una legge elettorale, dobbiamo avere la legge elettorale. Si va verso l'estate. Votare con campagna elettorale nelle spiagge mi sembra un po' difficile. Cioè, avete capito il momento di stasi, di stallo, di noia totale che stiamo vivendo per quel che riguarda la politica? Di noia totale da farsi implodere. Si parla di legge elettorale, la notizia politica del giorno è questa, il dibattito sulla legge elettorale, roba da prendere, andare tutti quanti in Burkina Faso in vacanza per 3 mesi. Te ne devi andare. Lo so, va bene, l'ho già detto io che me ne devo andare. Viaggio premio in Iran. Però, caro presidente De Luca, grazie, grazie. Ma l'Iran è un posto magnifico che regala tante belle cose. Fustigazione. Beh, adesso ho detto un viaggio da viaggio premio. Fa uno dà la possibilità al presidente De Luca di condurre forse 24 mattino nella versione 4.0 e subito ci facciamo. Non è il momento di fare dibattiti. Appunto. E subito prendiamo, come dire, il comando così e. Un attimo. Oh, Giovano, sono parole, chiacchiere. Niente, la vedo una conduzione un po' troppo aggressiva, quella che si prospetta da qui a qualche... Baci a baci. Oh, ecco, adesso un clima un po' più... Sono anche le 6.33 del mattino, caro Presidente De Luca. Dobbiamo avere un atteggiamento un po' più tranquillo, più sereno, più no? Rilassato, no? Poetico, estetico. Come mi piacciono i Police prima maniera, eh? Poi dopo un disco e mezzo sono finiti, però come mi sono divertito. C'è Lorenzo Nespoli che non è d'accordo, 2 dischi, 2 e mezzo. Vabbè. Vabbè, dai. Alle 6:34 minuti insieme a Lorenzo Nespoli in redazione, Peter Bescapè in regia, siamo qui queste 24 mattino, eh? Come detto, ci sono notizie inutili sulla politica, ci sono altre notizie che mi incuriosiscono e voglio salutare intanto Carla Rocchi. Ciao Carla, come va? Non c'è. Bene, grazie, buongiorno. Ah, tutto a posto? Tutto a posto. Presidente dell'Ente Nazionale Protezione Animali, e guarda, una notizia su Alatri, già sai, una notizia su Alatri che mi ha... Ce l'ho proprio qua sul groppo. No. Una cosa impensabile, e quella cosa più drammatica è che la persona che viene accusata di questa cosa era uscito di galera la mattina e non era stato nemmeno disposto l'obbligo di firma. Mi domando che dobbiamo fare più. No, ma ne ho una, c'è quella che è una vergogna, ma ce n'è anche un'altra che è una vabbè. Intanto salutiamo Umberto Brindani, direttore di Oggi. Umbertone, come va? Ciao Alessandro, buongiorno a tutti. Tutto a posto. Allora, apriamo il Parlamento, perché sì, questa di Alatri. Ragazzi, se uno esce per prendere un caffè e gli signori, così, io vi voglio bene, ma... Allora, in realtà non si capisce perché solo dopo 3 giorni è venuta fuori, era venuta fuori subito che questo, uno dei due fermati per l'omicidio, gli hanno trovato, caro Umberto, quando sono andati a Roma, già era stato beccato nel 2011 con 5 chili. Chili, non etti e non grammi, 5 chili di hashish. Ma è stato trovato il giorno prima dell'omicidio con 300 dosi di cocaina, 150 dosi di crack e 600 dosi di hashish. E non so neanche le dosi. Questo è stato trovato, convalidato l'arresto. Il giorno dopo, prego, vada. Sentivo ieri il suo avvocato, che poi ha rinunciato all'incarico, che raccontava di come era riuscito a dimostrare la sua non pericolosità sociale. Non pericolosità sociale, certo. e poi di sera è successo quello che è successo. No, ma io dico, ma se uno viene trovato con 300 dosi di cocaina, 150 di caga e 600 di hashish, e 5 anni prima con 5 chili di hashish, però va bene così, perché questo è dato di fatto, non so, avrà avuto un processo, e allora, non lo so, allora va bene così, non so, Carla, era questo che, allora va bene questo così. Questo che deprime, perché quando si dice denunciate, abbiate fiducia, fate, uno denuncia, ha molta fiducia, poi mi domando, questa, chi è disposto che questo stesse in giro da solo, che come dorme la notte, cioè ci pensa... Io non lo so, io non ho proprio veramente, quando si dice non ho parole, questo è uno di quei casi, che altro deve succedere perché questa persona, che cosa doveva fare altro, quello che ha fatto la sera? Sì, ma poi per carità, cioè il giudice non poteva sapere che di sera avrebbe compiuto quello che ha compiuto, no, se lo ha compiuto, perché poi insomma bisogna essere garantisti, questa è l'accusa. Sì, per carità, però bastava, insomma, perché altrimenti quando si dice si denuncia, denunciamo. Però questo è un vecchio, come dire, purtroppo qui c'è una tragedia di mezzo, ma sono anni che si dice che la polizia fa gli arresti e i magistrati rimettono in libertà, magari, anzi, sicuramente seguendo quello che è l'ordinamento, le leggi e quant'altro. Le carceri sono sovraffollate, viene usato sempre di più lo strumento degli arresti domiciliari. Sì, ma qua neanche. Dico una cosa di destra, forse davvero bisognerebbe costruire nuove carceri. Visto che... No, ma voglio dire, sarà tutto secondo l'ordinamento, cioè non è che il giudice sia ammattito, ma se un ordinamento prevede che 300 dosi di cocaina, 150 di cacca e 600 di hashish, cambiamolo questo ordinamento, perché insomma uno che viene beccato così come minimo è uno spacciatore di livello. O a casa sua si appoggiano degli spacciatori di livello, perché sennò non... Sì, però a me piacerebbe, Alessandro, anche capire qualcosa di più, oltre ai due che sono stati arrestati, a questo personaggio in particolare, vorrei capire gli altri 18, papà di uno dei due che sembra che abbia partecipato, i buttafuori, cioè voglio dire, lì c'è questo fenomeno veramente che tu hai segnalato, questo qua che era stato scarcerato il giorno prima. Però ci sono 20 persone, secondo i testimoni, che hanno preso calcio e pugni sto ragazzo. Sì, sì. Queste 20 persone sono indagate non sarebbe il caso di, come dire, di andare un po' più a fondo su quello che è successo? Eh beh, sì, ma credo che adesso si debba ricostruire, insomma, forse hanno preso i due considerati i due più compromessi in questa vicenda, poi si vedrà, ma bisognerà ricostruire anche la posizione degli altri, che appunto si parla da testimonianze di attacchi di 10-15 persone. No, ma c'era un'altra cosa che mi ha un po' inquietato, e per quello che dico, Carla, c'è questa cosa che è stata trovata su Facebook, su un gruppo che non saprei neanche definire, se di animalisti, non lo so. Allora, questo povero ragazzo pescava, e allora su un gruppo Facebook è uscita la foto di lui con i pesci, dicendo: il ragazzo ucciso era un cacciatore. E morte chiama morte, la ruota gira. No, perché la ruota gira, Emanuele è morto perché era un cacciatore. Ma, cioè, ma vi rendete conto? Ma proprio anche, bisognerebbe, dico una cosa non di destra, bisognerebbe anche chiudere i social. Questa è più di destra, no? Perché ci sono delle persone, o fargli un corso, dare un patentino, cioè non è che uno si mette lì sui social, o purtroppo sì, invece è proprio così, si mette lì sui social, non ha niente da dire, da comunicare, e scrive queste cose qua. Se lanci una raccolta di firme sarà la prima. Non hai detto una cosa di destra, ma non si può fermare la tecnologia, non si può fermare la modernità, non si può fermare niente di questo. La verità è che dopo, come posso dire, un tentativo di anni, di secoli, di rendere le persone attente, non dico civili, ma attente, accorte a quello che dicono, a come si esprimono, questa dei social ha tolto ogni barriera. Cioè, chiunque dietro il fatto che non è riconoscibile, o anche quando è riconoscibile, dice qualunque cosa. Noi ancora non lo vediamo l'effetto di tutto questo, ma è molto vicino, perché chi è abituato a dire qualunque cosa sui social a casa sua, poi dopo questo ritiene normale fare qualunque cosa. Fare qualunque cosa. Io sono convinta che sì. I profili di questi, magari di questi inquisiti adesso, chissà cosa si trova. Io ieri l'ho fatto. Io no, perché proprio mi fa spavento. Ma ieri l'ho fatto e si trova. Vabbè, ma si trova. Cos'è, Umberto? Si trova il paese, cioè non possiamo neanche pensare, lo so, tu non sei su Facebook, Carla, no? O sì, sei su Facebook. Ma me ne guardo, non sei su Twitter. Non so, anche Umberto, no, Umberto no, non sei. No, sono per errore su Facebook, ma è una pagina morta. Per errore, per errore. Ma nessuno se ne guarda, perché poi stai a fare che cosa? A dire che ti sei alzato la mattina? Sì, ho fatto colazione, guarda che bella torta che ho fatto. Che significa? Ma questa gente, voglio dire, chissà che vite hanno, non parlano con nessuno. Hanno quelle vite un po' così. Eppure i due cretini che hanno fermato l'ambulanza. Quelli due fantastici. La loro impresa. Fantastici. Sì, quelli sono straordinari. Quelli che hanno fermato l'ambulanza al grido di vergogna, vergogna, vergogna. E l'hanno messo su Facebook, almeno se non lo diceva nessuno gli dava del cretino. Esatto, quali, esatto. Cioè, se lo tenevano per bullarsi con gli amici, in quattro gli dicevano: ma sei cretino, fermi un'ambulanza. E invece hanno cercato proprio l'inno totale volevano sentirsi l'eco del cretino ino da tutta Italia, no? Vabbè, sì, perché non si distingue più proprio che cosa sia giusto fare. Questi a casa, qualcuno che gli dice che non lo trovano, io questo mi domando, avranno una moglie, un suocero, magari dicono: hai fatto bene, finalmente uno che fa. Ma l'intuizione geniale è quella di Crozza, Napalm 51, quella è una figura storica perfetta, proprio con quelli che stanno lì che cliccano, perché poi se gli dici busto pianerottolo, sì. L'importante è non confrontarsi mai con la realtà, sempre stare dietro qualcosa, sempre dietro uno pseudonimo, sempre dietro qualcosa. Umberto, vabbè, insomma, io avrò una missione: portarvi tutti su Facebook. Neanche morto. Va bene, ho trovato. Vabbè, signori, c'è qualcuno invece che si è confrontato con la realtà ed è il ministro Poletti, che da due giorni non sa più come fare per togliersi. Io ho un suggerimento a Poletti: quando dici una minchiata, adesso così, basta, passa oltre. Ha protestato anche il presidente della federazione di calcio a 5, cioè capite, ufficialmente sul calcetto e il lavoro. Ci sono due deputati, Fassina e Fratoianni, che sono andati a giocare a calcetto davanti al Ministero del Lavoro per protesta, cioè capite? A questo si è arrivato. Poletti invece cerca in tutte le situazioni di scolparsi ancora qui. Lo perseguiterà il calcetto. Sì. Ma io incontro molte persone che si occupano di reclutamento di personale nelle imprese e tutti mi dicono: guarda, io cerco di capire chi sono questi ragazzi e poi chiedo loro cosa sanno. Non ha nominato il calcetto, fortunato questo ieri. Umberto, come se ne esce da questa situazione? Voglio dire, rispetto alle sue gaffe precedenti, questa mi sembra veramente panna montata, perché voglio dire, lui ha detto quella che è una semplice verità. Una verità. Oltretutto, leggevo ieri, mi sembra, su Repubblica, i dati su in che modo viene trovato lavoro e, insomma, 3 su 10... più di 3 su 10 lo trovano grazie alle redazioni. Sì, certo. Quindi, ma non credi che un ministro ha sbagliato? Cioè, non è che... No, ma cioè, ha sbagliato tutto. Il senso di dire... doveva dire quella parolina. Purtroppo è un paese in cui si trova il lavoro così. Ma noi no, cercheremo... Tu hai ragione, però anche questo scatenamento forse sarà per quello che dicevi all'inizio, cioè per la noia tremenda di questo sì, momento politico, mamma mia, in cui le uniche emozioni forse ce le dà Theresa May e questo casino che sta succedendo là con la Scozia dal Nord Irlanda che si vogliono separare. Almeno là stanno... come dire, stanno facendo un po' di caos. Fanno qualcosa. Da noi è piatta proprio, ore 10 calma piatta, ti ricordi il film? Come no. E allora per questo è stato dato a questa frase, piena purtroppo, come dici giustamente tu, di verità, di Poletti, e sono tre giorni che non si parla d'altro. Non si parla d'altro, basta, si parla solo di legittima difesa. Ma come... ricordate quei ministri che parlavano del tunnel sotto il Gran Sasso? Cioè, quelle erano vere gaffe, questa è una verità che un ministro forse non doveva dire, ma insomma, cioè, politically correct ormai ci ha devastato, non so come dire, non si può più dire niente. Ecco, dico io, ma tacere, no, mai. Questi devono parlare, c'è sempre un microfono intorno, è una vita infernale quella, cioè, di un ministro. Lui ha detto: ho parlato 2 ore e avete preso quella frase. Che ha parlato 2 ore, forse qualche volta bisogna che questa brava gente ascoltasse. Pensate che rivoluzione sarebbe se invece che parlare ascoltasse. Il politico che ascolta. La roba eversiva. Che siamo proprio. Oggi una frase di destra da Bersani, una frase eversiva, appunto, quasi da arresto immediato per Carla Rocchi. Cioè, è una roba incredibile. Andiamo al traffico, perché qua la situazione sta degenerando. Scusa, mio amore, non è che non ti volevo sposare. C'era il traffico. Grandi cambiamenti in vista? Scegli Gondrand Traslochi per il tuo trasloco internazionale. Gondrand.it vi presenta. Disgraziato, pretendo. Milan, cerca di non essere fraintendibile come Poletti, Buongiorno Milan. Ma sai che se ti guardi un po' dentro, anche tu sei un po' grillino, Milan. Vieni con noi, Milan. The Article 50 process is now underway, and in accordance with the wishes of the British people, the United Kingdom is leaving the European Union. Beh, questo è un momento per chi segue il Parlamento britannico. Umberto Brindani è sempre straordinario, cioè questa modalità che il Premier parla e ci sono quelli che yes, no, cioè, è una cosa proprio che per noi abbiamo, non so, le mattane di quelli un po' che ogni tanto prendono la parola, poi intervengo, invece yes, no. Ma poi è bellissimo diciamo il Parlamento britannico, cioè tutti seduti attorno, esatto, al Premier, chi parla si alza, si appoggia al tavolino, che bello. Dai, andiamo tutti in Gran Bretagna. Ah no, non ci vogliono più. Questo non possiamo, no, però è un momento, cioè è anche leggere sui giornali effettivamente questa lettera che è partita, è stata messa sull'Eurostar da parte di un commesso che è partito tra l'altro con l'Eurostar, cioè la cosa più europea, il treno più europeo che esista, che è andato a Bruxelles e ha consegnato all'ambasciatore britannico a Bruxelles la lettera protocollata con cui si comunica l'inizio della procedura per uscire dall'Unione Europea. Ma è Carla Rocchi, ma non è qualcosa di straordinario, anche di... Beh, no. Ha un che di come posso dire, affascinante, dai. Mancava che aprendo la lettera quello dicesse: oh, è l'ambasciatore che hanno deciso di fare, prendiamo nota. Vabbè, fa parte del cerimoniale, che fa parte del cerimoniale, però. Ma in realtà questa cosa adesso ci deve o no inquietare, perché abbiamo detto varie volte che è partito un processo che chissà dove finirà. Finirà tra due anni, chissà come, tutti gli accordi commerciali da fare. In che cosa Umberto ci deve preoccupare, secondo Guarda, te? Guarda, nessuno l'ha capito ancora, neppure gli inglesi. In questo momento credo ci siano un po' di nostri rappresentanti istituzionali a Londra, c'è Padoan, Sala, sì, Maroni, eccetera, stanno cercando di accaparrarsi, diciamo, le spoglie della City, come l'agenzia del farmaco, per esempio, sì, vogliono portare. No, esatto. Questa è un'opportunità per l'Italia. No, esatto, quindi potrebbero esserci forse più opportunità, cioè ci siamo tanto, come si può dire, pianti addosso, però forse le cose potrebbero andare, diciamo, meglio con l'Inghilterra di quello che potrebbe succedere con gli Stati Uniti, perché leggendo le notizie di oggi, adesso se la prenderà anche direttamente con i prodotti italiani il nuovo presidente, sì. Quindi forse non dobbiamo preoccuparci tanto, dico. Però c'è una cosa, no, volevo farti notare, sì, una cosa, sì, sì, curiosa di quello che sta succedendo nel Regno Unito. La premier inglese è una donna, la premier scozzese è una donna, la premier nordirlandese, che anch'essa vorrebbe separarsi, è una donna, la regina è una donna, ma gli uomini, i maschi, che fine hanno fatto? Noi abbiamo qua Carla Rocchi che possiamo spingere e sponsorizzare. Carla. Grazie, sì, per fare la regina. No. la vedo bene Carla Rocchi, la regina, ovviamente con 400 animali intorno, cagnolini, gatti, gattini. C'è qualche storia degli animali che ci vuoi raccontare? Una storia di animali? No, sì, una curiosità, insomma, qualcosa che... Ce n'è sempre tutte le... Questa settimana ci sono state cose maggiori e cose minori. A me, sì, piace pensare alle cose minori. C'è stata un'adozione stellare di una cagnolina di 14 anni cieca, che sembrava, sai, quegli appelli che arrivano, rimarrà sempre qui, nessuno se la prenderà mai, eccetera. Insomma, questa cagnolina è stata adottata, la famiglia che l'ha presa è deliziosa, e dalla piccola cosa viene la grande consolazione. E va bene, questa è una bella notizia. E invece questi pescatori che ce l'hanno con i delfini nelle Eolie, perché dicono che gli rubano i pesci? No, mi hanno scritto, sono persone, loro dicono, io ho chiesto maggiori informazioni ai nostri rappresentanti alle Eolie, loro dicono di essere, e in questo ci credo, dicono di essere stati fraintesi. Perché loro dicono loro stessi, perché semmai i delfini fanno il loro sporco lavoro, mangiano i pesci. Mangiano creature, ecco, ma loro non hanno, hanno preso le distanze loro da quello che è stato detto di loro, quindi io voglio crederci, e in un momento così polemico voglio credere che abbiano detto che quello che hanno detto sia quello che hanno fatto. Vive Delfini, vive Delfini, ma anche un po' i pescatori. Però signori, qua abbiamo iniziato e mi sono già tirato tantissime critiche. Ieri un ascoltatore mi ha scritto dicendo che non capisce questo tipo di ironia, mi abbasso al livello di Cruciani, una cosa che non lo so, ma no, ma non abbiamo detto parolacce, quindi non lo so. Però abbiamo iniziato la rubrica secondo me straordinaria, perché io voglio chiedere ai miei ascoltatori un aiuto, una mano tutte le volte, e i miei ospiti, voglio dire, e cioè le metafore di Bersani. Tu Umberto Brindani le capisci? Per me la metafora riesce, se fatta bene, a far capire con immediatezza un concetto anche magari non semplice a volte, a e tutti su, quanti. E su questo non ci sono dubbi. Allora, siete pronti? Perché noi ogni giorno rispolveriamo una vecchia metafora di Bersani per cercare di capire se mi date una mano a, no? a capirla. Vabbè, la metafora di oggi. Non possiamo raccontare che gli asini volano. Non pensiamo di mettere la camicia di forza, una pentola a pressione. Non la conoscevo. Quindi. La camicia di forza. Carla Rocchi, che ogni tanto sicuramente cucina, sono sicuro. La camicia di forza, la pentola a pressione. Non... No, io mi distraggo perché guardo l'asino che vola fuori dalla finestra. Esatto, quindi... esatto. Gli asini volano e la camicia. Questo è un grande, so. Però, guarda, è un grande. Passerà la storia. Questa forse l'ho capita anch'io. Cioè, non si può cercare di, come dire. Sai, si dice anche non si può fermare il vento con le mani, che è molto ecco, più poetica, ecco, no? ecco, è questo il senso, no, Carla? La camicia sì, forza. La metafora è chiara, ma io adoro queste cose, adoro quest'uomo che è immaginifico. Oh, guardate, la politica che è così piatta. Oh, cioè, finalmente, alle metafore di Bersani. Adoro queste metafore, perché poi ce ne sono tante, siccome tutti si aspettano una metafora, Stomo, sì. Secondo me, prima di andare in pubblico, pensa a quale metafora di dire. Pensate che il repertorio gli si assottiglia. Perché... Quindi lì la camicia di forza era sulla pentola a pressione, non per altri scopi. Poi che cosa avesse in mente dicendolo? Va bene. Oggi dai, l'abbiamo chiarita. Io ringrazio Carla Rocchi, presidente dell'ENPA, e Umberto Brindani. Il nuovo numero di oggi, ovviamente, lo trovate in edicola. E con la metafora sulla camicia di forza e la pentola a pressione, ci sentiamo dopo per la rassegna stampa. Aline Mila, Eli e Gestigion, Lanciano di Yamia. 24 mattino. Allora, siamo qua alle 7:19 minuti, cari ascoltatori. Questa è la rassegna stampa di 24 mattino. Ci siamo nella lettura dei quotidiani. Possiamo andare, caro Peter, forza. Non c'è niente di più divertente che commentare i giornali, ragazzi. Siamo a giovedì 30 marzo, la maggior parte dei quotidiani sono dedicati, come aperture almeno, alla questione della Brexit, l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea. Non solo però questo, il Sole 24 Ore stop alla super borsa UE, monopolio sui titoli di Stato. E poi appunto la Brexit, invece l'Europa a Londra, ci rimpiangerete, l'apertura del Corriere della Sera. Per Repubblica, Brexit, ora Londra è più lontana. Anche Avvenire, prove di disunione. Mentre il Messaggero, Brexit, non si torna indietro. Il Giorno, 2017, fuga dall'Unione Europea. Poi veniamo alle questioni italiane. Il Giornale, la manovra in arrivo, IVA, benzina e case, ecco cosa ci aspetta. Il titolo invece di apertura della Stampa, gli Stati Uniti e l'Italia, attenti ai rapporti tra Russia e Movimento 5 Stelle, l'allarme da Washington. La Verità, guida per aumentarvi la pensione, dopo la denuncia della Verità, l'INPS dà le istruzioni per far valere i diritti inespressi. Il Fatto Quotidiano invece si concentra ancora su il ministro Madia. Madia, ecco le nuove furbate dopo l'accusa di avere copiato la tesi. Oltre alla tesi, il file PDF del testo incriminato fu creato da un'amica. Questa è l'accusa oggi del Fatto. Il Libero invece sentenzia: il PD aiuta i ladri, il tradimento sulla legittima difesa. Il Manifesto se la prende con il ministro dell'interno Minniti, da più parti definito insomma, molto muscolare in alcuni suoi interventi. Testa di cuoio, questo è il titolo con la foto di Minniti. Mentre l'Unità, nessuno tocchi più i piccoli migranti. Approvata alla Camera la norma che protegge i minori che arrivano in Italia senza famiglia. Ma ogni giorno se ne scopre una sulla vicenda di Alatri, che è la vicenda di cronaca di cui parlano un po' tutte le TV, molti giornali. L'ultima, che sinceramente ha fatto sobbalzare sulla sedia molti, me compreso, quando l'abbiamo letta, è il fatto che una delle due persone fermate per l'omicidio di Emanuele Morganti, vale a dire Mario Castagnacci, era stato fermato il giorno prima e arrestato, con valida dell'arresto, fermato il giorno prima perché nel suo appartamento a Roma gli erano stati trovati, udite udite, 300 dosi di cocaina, 150 dosi di crack e 600 dosi di hashish. Se non che la mattina dopo il GIP di Roma ha convalidato sì gli arresti, ma accogliendo la tesi di consumo di gruppo avanzata dall'avvocato, ha disposto la contestuale remissione in libertà del quartetto in attesa del processo, senza misure restrittive di alcun tipo, neppure l'obbligo di firma richiesto dal PM. Cioè, non so se avete capito, 600 dosi di hashish, 300 di cocaina, 150 di crack, consumo di gruppo. Questo secondo il GIP. Ovviamente è bufera. Alatri è un caso il picchiatore scarcerato il giorno del delitto. Pagina 15 del quotidiano Il Messaggero viene intervistato, non intervistato, c'è un commento di Antonio Di Pietro che dice: io anche con 10 bustine li mettevo in galera, ma chi ne ha 100 è il capogruppo. Ci sono europarlamentari che parlano di leggerezza incredibile costata la vita al giovane Emanuele. Beh, certo, ma nessuno, per primo il giudice, mai si immaginava che cosa avrebbe potuto fare, se lo ha fatto, perché poi c'è un processo a portare avanti quella stessa persona di sera. Però certo è impressionante anche il Corriere. Alatri, un fermato scarcerato il giorno del delitto, arrestato per droga, tornato in libertà dopo poche ore. Ma la situazione, che sia una situazione un po' complicata, lo dimostra anche questo articolo proprio del Corriere della Sera, clima pesante. Una giornalista di La Sette che è stata aggredita in un bar per aver firmato una violenta lite tra parenti e amici di Emanuele. E poi il presunto killer che è stato fermato poche ore in caserma, poi la convalida dell'arresto e poi la libertà. Il suo avvocato è stato, cioè, ha rimesso il mandato, dicendo però che lo ha fatto per motivi personali. Poi anche il sindaco di Frosinone, che è Nicola Ottaviani, ha rinunciato alla difesa del padre di questa stessa persona. Dice: ma no, solo per incompatibilità, l'avevo difeso in una causa contro un parente. Un altro avvocato ha denunciato, Giampiero Vellucci a Frosinone, minacce di morte nei suoi confronti e anche una spedizione punitiva di 3 persone che sono entrate nell'ufficio spintonando le segretarie, rompendo un vaso e spaventando i clienti. Vogliono impedirmi di fare il mio lavoro. Lui assiste, 2 butta fuori del locale. Insomma, il clima certamente è di quelli di alta tensione. Dopo quello che è successo. Invece abbiamo parlato nei giorni scorsi della vicenda del medico arrestato Norberto Confalonieri, che è arrestato con l'accusa, già soprannominato da alcuni addirittura il dottor Spezzafemori, perché in un'intercettazione sembrerebbe che abbia provocato una rottura di un femore per poi fare un'operazione. Ovviamente anche qui bisogna usare il condizionale. Accuse che Confalonieri rigetta categoricamente in una lettera inviata alla trasmissione Matrix di Nicola Porro e che viene pubblicata oggi dal Giornale a pagina 19. Non sono un mostro. Ho passato tutta la vita a cercare la cura meno cruenta e aggressiva per farvi il minor danno possibile. Si rivolge proprio ai suoi pazienti. Il dubbio però si è insinuato, ma credetemi, vi ho sempre operato in scienza e coscienza. Certo, qualche complicanza c'è stata, ma l'abbiamo sempre risolta. Io sono Brianzolo e da noi si dice chi lavora il legno fa i trucioli. Ma voi mi avete sempre capito, avete capito la mia buona fede, non ho contenziosi aperti con voi. Vi scrivo queste parole con le lacrime agli occhi, chiuso nella mia casa impotente. Vi penso sempre, tutti, soprattutto quelli che non ho potuto operare in questi giorni. I miei collaboratori allievi sono bravi, il computer li aiuta, non perdete fiducia nella mia equipe e nel CTO. Vi abbraccio tutti, uno a uno. Ricevo attestati di stima, ma confessa questo dottore, effettivamente molti sono perplessi, il dubbio si è insinuato, però difende la propria professione, dice non ho compiuto quello che mi accusano di avere fatto. Vabbè signori, intanto altra questione che riguarda i soldi, soldi. Vale a dire gli stipendi in Rai, ormai è abbastanza chiaro che ci sarà la deroga, siamo il paese delle deroghe, nonostante il tetto da 240.000 euro fissato anche per chi lavora in Rai, alle star Rai il super stipendio è concesso, questo è il titolo di Libero, ma tutti i giornali, anche Repubblica, il tetto non vale per gli artisti, è un parere dell'Avvocatura dello Stato che dice la limitazione ai compensi distorce la concorrenza. E dunque, il principale consulente giuridico del governo, l'Avvocatura di Stato, dubita che il tetto dei 240.000 euro lordi annui valga anche per gli artisti della RAI. Racconta così Aldo Fontanarosa a pagina 11 di Repubblica, manager e dipendenti dovranno guadagnare al massimo questa cifra, ma gli showman non è detto. E questo si è detto perché distorce la concorrenza, ci sono molte star che guadagnano molte di più e che altrimenti minacciano di andare altrove. Fabio Fazio è il primo, tra l'altro, che ieri su Twitter, mi pare, abbia lanciato questo messaggio un po' criptico. In una TV che cambia bisogna assumersi responsabilità e nuovi rischi, ha scritto Fazio. D'ora in poi, ovunque sarà, vorrei essere produttore di me stesso. Ecco che tutti i giornali raccontano, come La Stampa, Fazio lancia la bomba. D'ora in poi vorrei essere produttore di me stesso, e cioè la possibilità che lasci la RAI. A proposito di soldi, ecco l'articolo che mi fa più... ore della giornata. Volete sapere quant'è il cachet di Fabrizio Corona per andare una serata in discoteca? Questo almeno si evince anche dai guai, anche col fisco, dal processo, insomma l'ennesimo processo che lo vede alla sbarra per circa 2.600.000 euro in contanti trovati in un controsoffitto nella casa di una collaboratrice. Ebbene, 25.000/40.000. Eccolo qua il giorno, 40.000 euro per una serata disco e selfie. Ecco il tariffario di Fabrizio Corona. Agghiacciante quello che dicono, è una vergogna. State ascoltando un programma offerto da centrosoftware.com, il miglior ERP per il successo della tua impresa. Alessandro Milan, il che cos'è dell'informazione? Mamma mia, allora va bene cari ascoltatori. Allora, torniamo a parlare di immigrazione. Ieri è stata una giornata in cui c'è stato il primo sì, è la notizia politica più importante secondo me, il primo sì per il decreto Minniti-Orlando sì al Senato, un decreto che introduce procedure e tribunali speciali per i richiedenti asilo. E prevede anche altre cose, ovviamente. Ed è singolare, è curioso, è interessante anche da far notare che questo provvedimento sia stato più apprezzato, come accade spesso alle mosse, tra l'altro, del ministro dell'Interno Minniti, più apprezzato da giornali orientati, diciamo, per il centrodestra piuttosto che da giornali orientati per il centrosinistra. Guardate il titolo del manifesto, testa di cuoio, appunto, è il titolo di prima pagina con la foto del ministro dell'Interno e tra l'altro le critiche riportate di Arci e Caritas, così si criminalizzano gli immigrati, il CSM anche che dice pericolosa compressione delle garanzie. Mentre invece dove troviamo un colloquio con il ministro dell'Interno Minniti? Sul Giornale, a pagina 3, Chiara Giannini, sicurezza è libertà. Lavoro volontario per i migranti accolti. Dice in questo colloquio Minniti: ho l'urgenza del fare, perché c'è un dato semplicissimo. Io avverto il logoramento delle parole. Mi sono formata a una scuola di parole, sono laureato in filosofia e nel lungo tempo mi sono occupato di filologia classica, quindi le parole erano il mio elemento naturale. Penso però che la cosa più importante sia dimostrare di essere in sintonia con gli interessi del paese. Per questo, in questi 3 mesi, ho sempre cercato di comunicare una cosa che avevo fatto e non una cosa che avrei fatto. E sull'immigrazione, dice Minniti, il fenomeno è epocale, lo è stato in passato e penso lo sarà in futuro, investe non solo l'Italia e l'Europa ma il pianeta intero e c'è bisogno di un progetto complessivo, una strategia. Sappiamo che una parte della questione si gioca fuori dai confini, per questo abbiamo firmato il memorandum con la Libia. Dobbiamo anche creare le condizioni perché nessuno abbia più da partire. Serve uno scenario di stabilità. E qual è la filosofia di Minniti ancora in questo colloquio con il Giornale? Se uno scappa da una guerra, una carestia, penso che il mio paese debba accoglierlo, dargli protezione, successivamente integrarlo. Se invece è fuori dalla legge, deve essere rimpatriato. Il paese deve dare una risposta in tempi ragionevolmente certi a coloro che chiedono una protezione internazionale. 2 anni sono troppi, dunque l'obiettivo è far scendere tutto a 6 mesi. Ed eccola qui proprio la domanda finale. Ma la cultura di sinistra ha finalmente capito che sicurezza è libertà? Ne sono profondamente convinto, chiarisce Minniti. Sicurezza è libertà? Perché è del tutto evidente che non ci può essere un'idea di sicurezza se non è garantita la libertà individuale, così come non c'è una vera libertà se non è garantita la sicurezza del vivere quotidiano. Questo dice Minniti, le critiche del manifesto ci sono, anche se sia il manifesto sia l'Unità, tutti i giornali apprezzano una parte della legge, cioè saranno finalmente, come tutti gli altri bambini italiani e europei, i bambini minori che arrivano con le migrazioni. Hanno bisogno di una protezione e che finalmente è arrivata invece quando la Camera, quindi un'altra questione, ha approvato ieri definitivamente il disegno di legge che fissa le nuove norme per la tutela dei minori stranieri non accompagnati che sbarcano nel nostro paese. Decine di migliaia di bambini e ragazzi che arrivano da noi lasciandosi alle spalle miseria, guerre, e che verranno tutelati. Questo sto leggendo l'articolo di Carlo Lania a pagina 3 del manifesto. Sull'immigrazione vi segnalo anche la chiusura dell'Austria, Vienna che blinda il Brennero. Sono stati istituiti controlli speciali sui treni dall'Italia per bloccare gli ingressi. L'Austria non vuole neanche la riallocazione dei migranti, tanto che il Messaggero intervista Dimitris Avramopoulos, che è il commissario europeo per le migrazioni e oltre che gli affari interni, la cittadinanza. E dice Avramopoulos, richiamando la solidarietà di questi stati, la solidarietà non può essere à la carte. Tutti gli stati membri devono adempiere ai loro doveri. È troppo facile dire, per esempio, come il premier polacco, che è inefficiente la politica di immigrazione senza averla attuata. E dunque basta solidarietà à la carte, tutti gli stati devono aiutare. Questo è l'appello che chissà se rimarrà inascoltato o no del commissario europeo Avramopoulos. In tutto questo la politica italiana invece si interroga sulle comunali fissate l'11 giugno, vi interessa? Il 25 i ballottaggi, 11 giugno, 25 giugno, sono città importanti come Parma, Padova, Genova, Palermo, Catanzaro, in cui si va a votare, e altre ovviamente realtà. Poi l'altra notizia politica del giorno è che Emiliano, che sarà tra l'altro nostro ospite dopo le 8, è stato ieri sentito sulla vicenda Consip, quella per cui sono indagati Luca Lotti, ministro dello sport, e Tiziano Renzi, il papà di Matteo Renzi. Perché? Perché Emiliano ha mostrato alla Procura di Roma gli SMS con cui, si scrivono i giornali, Lotti e il papà di Renzi insistevano perché lui incontrasse Carlo Russo. Carlo Russo che è finito in carcere con l'imprenditore Romeo, che è finito, insomma, arrestato in questa vicenda. Emiliano aveva già reso noti questi SMS mostrandoli a un cronista del Fatto Quotidiano, aveva raccontato che nel 2014 Russo lo aveva contattato a nome di Lotti e lui voleva sincerarsi che non fosse un millantatore, per questo aveva chiesto proprio a Lotti: conosci un certo Carlo Russo che sta venendo a Bari dicendo che è amico tuo e di Maria Elena Boschi? E Lotti aveva risposto: lo conosciamo. E quando Emiliano aveva insistito per sapere se lo devo incontrare o lo devo evitare, Lotti gli aveva consigliato di vederlo. Allora, questo è il succo un po' della deposizione di ieri, per cercare di capire quali sono appunto questi tipi di rapporti. La politica oggi ha anche una notizia interessante, se non fosse altro perché è una notizia, come dire, esclusiva della Stampa, tanto che la Stampa la mette come titolo di prima pagina, riguarda i rapporti tra il Movimento 5 Stelle e la Russia. L'allarme viene da Washington, quindi dai nostri alleati: fate attenzione ai legami tra il governo russo e il Movimento 5 Stelle. È il messaggio circolato nei mesi scorsi nell'amministrazione americana, con lo scopo poi di mettere Roma al corrente di un fenomeno più vasto, cioè l'esteso impegno di Mosca a sostenere forze politiche intenzionate a sfidare gli establishment nazionali. Cioè, da Washington si dice questo allarme, attenzione, perché Mosca appoggerà in una sorta di strategia di destabilizzazione, questo è l'allarme di Washington, il Movimento 5 Stelle in Italia. E Ilario Lombardo, sulla pagina 3 della Stampa, va a fare un colloquio con Manlio Di Stefano, che nei piani 5 Stelle dovrebbe fare il ministro degli esteri in un ipotetico governo 5 Stelle. E in questo colloquio ecco che Di Stefano ammette: Putin è già un interlocutore, ha vinto su tutta la linea. Gli arresti a Mosca? E allora Guantanamo? Non tocca a me valutare la democrazia in un altro paese. Esordisce così in questo colloquio Manlio Di Stefano per levarsi dall'impaccio di una domanda che in tanti fanno ai 5 Stelle, cioè: cosa dite della retata di massa di Vladimir Putin? Se c'è un partito in Italia che per somiglianza avrebbe motivo di simpatizzare coi giovani ribelli di Mosca, è proprio il Movimento 5 Stelle. La piattaforma anticorruzione nata online, il leader Navalny che è un blogger, cosa vi ricorda? E allora perché il Movimento 5 Stelle tace? Nei piani di governo a 5 Stelle Di Stefano è destinato a fare il ministro degli esteri, è il più competente, ha una passione che ora è diventata un lavoro e lo fa viaggiare, è a lui che al Movimento 5 Stelle ha affidato il compito di delineare il programma di esteri. E però quando si parla di Putin dice e svia un po' dicendo: perché allora non ci occupiamo dell'Arabia Saudita a cui l'Italia vende le armi? Io mi devo preoccupare di non favorire un governo di commettere crimini, mentre il ministro Alfano contesta gli arresti del Mosca. Abbiamo fatto invece accordi milionari con i sauditi. E poi perché non parliamo di Guantanamo? È ancora aperta e a Barack Obama ha dato il Nobel per la pace. Questa è ipocrisia. O condanniamo tutti i paesi che ledono i diritti o non possiamo fare una selezione. E poi ancora, Putin è un partner strategico nella lotta al terrorismo. Non vederlo è cecità. Insieme ad Assad ha vinto la guerra in Siria. E va bene. Ci sarà questo allarme, chi lo sa. Intanto c'è il nostro Mauro Meazza, buongiorno. Buongiorno, buongiorno caro Alessandro, buongiorno agli ascoltatori. Allora, sul Sole 24 Ore di oggi, essendo giovedì, sì, perché è giovedì, ci sono le pagine di Casa 24. Le segnalo con particolare fervore perché oggi ci occupiamo del peso delle detrazioni. Guarda che oggi le detrazioni sono centrali, perché detrazioni fiscali che quando tu vendi, se ne avevi ancora da utilizzare, avevi ancora rate, allora si può trattare sul prezzo. Tutti i particolari su Casa 24 di oggi. Ma perché ci occupiamo di detrazioni? Perché è il momento di riaprire il capitolo delle tax expenditures. Oh. Tu sai cosa sono le tax expenditures? Come no? Studiato tantissimo. Non sei preparato, va bene. Allora, sappi che con questo termine inglese si definiscono le detrazioni e deduzioni, insomma gli sconti del fisco, quelli ad esempio per comprare gli sconti, le allora potrei... sono sconti. Tax expenditures, allora vogliamo riordinarle, però le riordiniamo, le riordineremo con forse un po' con la manovrina, un po' col DEF e un po' con la legge di bilancio del prossimo autunno. Tutti i particolari oggi sul Sole 24 Ore di questo aprile che ormai incombe, e già ti ho avvisato con le parole del poeta, sarà il mese più crudele perché c'è il DEF e la manovrina chiesta dalla UE e si punta alle tax expenditures. Oh guarda, aumentano le accise, probabilmente aumenteranno le accise su alcol e tabacchi, non sulla benzina, così anticipa oggi il Sole 24 Ore. Oh, poi ti voglio dire, è in stallo la trattativa su Basilea 4, sai che Basilea 4 sono questi accordi per la regolazione delle banche, però devono mettersi d'accordo Stati Uniti e banche europee, ma l'accordo non c'è perché gli Stati Uniti stanno cambiando un po' la loro linea. Tutti i dettagli su finanze e mercati che leggerai. Avidamente. Bravo. Oh, invece qui Radio Fisco è importante, c'è un documento congiunto del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e di Confindustria sul passaggio ai nuovi bilanci, sai che ci sono le nuove regole per i bilanci. Segnalo anche per gli abbonati all'edizione digitale, c'è direttamente proprio il pulsantino che vi porta al documento. Il documento è molto importante perché tu sai che con queste nuove regole, insomma, molte cose sono cambiate e alcune poste si fatica a valutarle correttamente. Oh, poi infine ti voglio dire, tu avevi già lanciato una moda evidentemente con la tua conduzione col robot, come la chiami, conduzione 2.0, 4.0, non so bene, con queste incursioni del digitale. Ecco, sappi che BlackRock ha deciso che punterà sui robot investitori, quindi lo leggerai già in prima pagina sul Sole 24 Ore e poi sempre sulle pagine già evocate di Finanze e Mercati. Molto altro ci sarebbe da dire, ma ora incombe il traffico. Faircam Air & Ocean, spedizioni mare aereo in mani sicure e pratiche doganali risolte. Faircam.com vi presenta Alessandro Milan, per l'uomo che non deve chiedere mai. Va bene, alle 7:48 minuti, allora leggiamo ancora qualcosa di politica. Uno dei dibattiti più assidui che si è riproposto in questi giorni è quello sulla legge elettorale, e tra l'altro proprio di legge elettorale come necessità di creare una stabilità politica parla il presidente di Confindustria Boccia in questa intervista rilasciata al Giorno, la trovate a pagina 6. Boccia: per crescere serve stabilità, col proporzionale sarà la palude. La premessa proprio di Boccia è questa: se vogliamo davvero ripartire dobbiamo porci il problema di come stimolare gli investimenti pubblici e privati. Ecco perché Confindustria guarda con attenzione alle dinamiche che condurranno alla legge elettorale che dovrà regolare le prossime elezioni politiche. Ovviamente il termine più utilizzato nell'intervista è necessità di stabilità politica, e il proporzionale si corre proprio il rischio del contrario, della cosiddetta palude. D'altronde anche oggi Francesco Verderami racconta un articolo del Corriere della Sera: rischio che con due leggi elettorali, una per la Camera e una per il Senato, non armonizzate, c'è l'incubo peggiore, e cioè che vinca alla Camera una coalizione, un partito, e al Senato un altro. Proprio la situazione, come dire, di maggiore ingovernabilità. Oh, il Fatto Quotidiano non molla di un centimetro nonostante le querele annunciate dal ministro della pubblica amministrazione Madia, non molla di un centimetro sulla questione della tesi, la tesi di laurea del ministro Madia. Oggi il Fatto Quotidiano continua e in prima pagina il titolo è: ecco le nuove furbate. Quali sarebbero queste nuove furbate? Non solo la tesi, copiature anche negli articoli scientifici, interi blocchi di testo non originali nelle pubblicazioni con un'amica ricercatrice. È sempre Laura Margottini che racconta sul Fatto a pagina 3: non solo la tesi di dottorato, anche nelle pubblicazioni su riviste scientifiche del ministro Madia risultano parti copiate da altri. Questa è l'accusa. E quindi continua qualche modo la battaglia, anche battaglia giudiziaria, tra il giornale di Marco Travaglio e il ministro Madia. Oh, dobbiamo andare a vedere che cosa succede all'estero. Tutti i giornali o la maggior parte aprono sulla vicenda della Brexit. Abbiamo sentito ieri ufficialmente è stata consegnata la lettera da parte dell'ambasciatore britannico all'Unione Europea dell'inizio della procedura, quindi attivazione dell'articolo 50 per la fuoriuscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea. Come racconta il Corriere della Sera, ironia della storia, la lettera per la Brexit ha viaggiato sull'Eurostar, quindi treno europeo. Martedì un membro del governo l'ha presa in consegna a Downing Street, cioè la sede del primo ministro britannico, e ieri mattina è salita a bordo del treno con la missiva in tasca. Ha superato il tunnel sotto la Manica, il plico è giunto a Bruxelles, è stato affidato all'ambasciatore britannico presso l'Unione Europea Sir Tim Barrow, che lo ha rimesso nelle mani del presidente del Consiglio europeo Donald Tusk. Ovviamente anche un po' di cerimoniale, giusto per un momento storico, come racconta anche Beda Romano a pagina 3 del Sole 24 Ore. Dopo mesi di tira e molla, il Regno Unito ha ufficialmente notificato la decisione di uscire dall'Unione, aprendo negoziati diplomatici con Bruxelles che si prevedono lunghi e complicati. Il presidente del Consiglio europeo Tusk, nel commentare questo, ha detto: dobbiamo limitare i danni, e poi ha nascosto: non c'è ragione per fingere che questa sia una giornata felice. Solo dopo i negoziati, la nuova partnership commerciale. Certo, il procedimento è lungo, ma anche sul Sole 24 Ore c'è tutto l'impatto su business, sanità, mezzi di comunicazione, telecomunicazione, agricoltura, banche, automotive, compagnie aeree, pub, ristoranti, costruzioni. Cosa succede? Cosa succederà? Certo, molte di queste domande hanno un'incognita ancora. Cosa potrebbe succedere? Possiamo dire così. Vedete, anche qua Repubblica si chiede proprio questo. E ora che succede? La domanda che si pongono tutti. Certo, intanto a Londra ieri c'erano il ministro Padoan, il ministro Alfano, il sindaco di Milano Sala, il governatore della Lombardia Maroni. L'obiettivo, parlando a una folta platea di investitori nella sede di Bloomberg, l'obiettivo è quello di tradurre i costi, le problematiche britanniche in una opportunità per l'Italia. Ecco dunque la missione tricolore nel cuore della City: venite a Milano. Per esempio, Maroni punta all'Agenzia Europea del Farmaco, che lascerà Londra in seguito alla Brexit, e Maroni vorrebbe che venisse a Milano l'agenzia del farmaco europea. Staremo a vedere. Intanto siamo in rapida conclusione. Vi voglio segnalare un reportage molto intenso e drammatico di Lorenzo Cremonesi, che racconta in Congo le schiave del Congo. Una serie di ragazze, ragazzine anche molto piccole, anche 11 anni, 12 anni, rapite, violentate, costrette a combattere. Eccolo qui il terribile racconto delle ragazzine soldato in una delle guerre più feroci al mondo. È una pagina del Corriere della Sera, non ho tempo per leggerla, ma ve la segnalo perché Lorenzo Cremonesi racconta in maniera intensa e drammatica le storie di queste persone. Ma siamo alla carta costa, articolo più inutile scovato sui giornali. Ricordate le polemiche per le iniziative della moglie di Bonolis, che ogni tanto twitta, che ne so, che va in aereo privato a Ibiza o che va a Cortina d'Ampezzo con i figli, problemi suoi, cose che, come ho detto, suscitano solo invidia sociale stupida da parte di chi vorrebbe andare a Cortina d'Ampezzo, vorrebbe un aereo privato ma non se lo può permettere. E va bene, quindi viva la libertà della moglie di Bonolis di scrivere quello che le pare. Ma c'è un'intervista di una pagina del Corriere della Sera, per appunto, alla moglie di Bonolis. Sì, sono una privilegiata, ma tutti usano i social per ostentare qualcosa. Una pagina! Ma chi se ne frega!